fucking week. Yeah. Sono la B, se mi banca fate il microfono, mi devo cantare il nuovo minimo una rima, perché se no dite che non sono buono, però se la B c'è mi manca sette, io dico per il cazzo anche sette. La rima non l'ho lucidata, quindi vuol dire che se non mi viene non l'ho passata. E se tu mi vuoi sfidare, io te lo dico, sono molto capace a rimare. Però io il guanto della sfida te l'ho già lanciato. Questa batteria qua, ma è molto lumato. Se mi guardi un'altra volta così, io ti sparo in faccia quattro rime come un MC. E quindi sono qui, sono la B, straveloce. Ricordati che a me nulla mi nuoce. E se tu mi posti in bocca al tuo microfono, io ricordati che vado in freestyle e non stono, perché sono buono e quindi ti do anche un dono di cominciare dopo di me. E quindi c'è, qui chi c'è, Uzi che va. Ok, ma hai passato la parola adesso, continuo la rima e lo sai che sono non sono un fesso. Mi sono incantato un attimo, comunque vado avanti, no. Tu lo sai che ci ho, ciò che c'ho, sai com'è. Veniamo da Vigevano e allora sei con me. Viaggio avanti dritto, chi cambia la base fottuto, ricco, non ce n'è. E allora check, parto questo freestyle, yeah. 1900, 400, 1100. Base veloce, mettiamo le frasi. Base veloce, mettiamo le frasi. Base veloce, mettiamo le frasi. Bow, bow, bow. Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein